Percorrerai piccole gioie che per nulla rinnegherai. Semplicemente sei l'aria, la palomega che in te, passaggio nel sogno dove vive la verità, la verità. Infinitamente piccolo.